identificare cause permanenti di ipertensione che una volta rimosse possano fare sospendere il trattamento antipertensivo. Mi piace ricordare in questa sede, perché lei ha sollevato il problema, che l'ipertensione è una malattia che nell'80% dei casi ha una causa ancora ignota, perché la scienza non è riuscita ad identificarla, e quindi non è un problema facilmente e totalmente risolto dalle strategie terapeutiche. È una situazione nella quale la terapia controlla il sintomo principale e con esso l'incidenza dei sintomi. Ma noi confidiamo su di voi, la troverete. Max da Vicenza ci scrive: 44 anni, magro, atletico, faccio corse e pesi, ma se resto accovacciato a terra un po' e poi mi rialzo in piedi, mi gira la testa. Certo. Professor, certo, è normale? È assolutamente normale, perché quando Max resta accovacciato accumula una quantità considerevole del suo sangue circolante negli arti inferiori, e quando si rimette in piedi il tempo che il sangue impiega a ritornare in circolo e arrivare al suo cervello per ripristinare una circolazione normale può generare un piccolo gap di qualche frazione di secondo, nella quale il cervello percepisce questa differenza tra il sangue che vorrebbe ricevere e quello che attualmente riceve, e quindi manda un segnale di allarme, come sempre avviene. Il cervello è molto suscettibile. Professor Borghi, e così la invito per la prossima volta, me lo stanno chiedendo gli ascoltatori, perché mi dicono: Nicoletto, ma perché non parli mai di pressione bassa? Mm-hmm. Perché non è, entro certi limiti, un fattore di rischio? Anch'io ho la pressione bassa, dicono che sia un po' la malattia di chi non muore mai e si lamenta sempre. Quindi, professor Borghi, io l'aspetto per una prossima puntata per lamentarci di tutti quei piccoli problemi che la pressione bassa dà a noi, ma meglio bassa che alta. Amici, intanto io la saluto, professore, quindi se lo segni in agenda. Io ringrazio Valeria Bernardi in regia, la parte tecnica, Claudia Schiattone in redazione. Vi aspetto domani alla Bufala in Tavola a mezzogiorno, e poi da lunedì via con Obiettivo Salute e i video. Buon sabato da Nicoletta, ma ci sentiamo domani.